24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:20 minuti. Dov'è Oscar Giannino? Non c'è Oscar Giannino. Siamo tornati alla normalità, alla programmazione normale di 24 mattino dopo i due Radio Days. Saluto Peter Bescapè, lui rimane alpino, eccolo là in regia. Oggi parliamo, ve lo dico subito, di... abbiamo titolato questa puntata Dagli al politico, perché non se ne può più di questa demagogia anticasta. Oh, sempre loro. E che sono? Tutto il male d'Italia, la casta per eccellenza, i politici? No! C'è qualcuno che dice no, lo dice per esempio il senatore Andrea Fluttero, che sarà nostro ospite, ha detto basta, insomma, siamo persone per bene e ce ne sono tantissime in Parlamento. Lo scrive anche Francesco Piccolo, che è un intellettuale, scrittore, ieri sull'Unità sarà nostro ospite, a dire attenzione a delegittimare la politica con questa campagna di anticasta. Insomma, sono davvero loro, solo loro, i veri colpevoli di tutto, i principali colpevoli di tutto. Dagli al politico. Questo più tardi, ora iniziamo dalla lettura dei giornali in edicola. Giovedì 22 dicembre, uno sguardo ai titoli d'apertura. C'è chi sceglie, come il Sole 24 Ore, la vicenda delle banche, l'asta per la liquidità. Asta BCE alle banche 489 miliardi, questo è il titolo di apertura. La stessa vicenda è trattata in modo diverso dal Fatto Quotidiano. 116 miliardi alle banche, 116 sono le banche italiane. Prendi i soldi e scappa. E lo stesso titolo, Prendi i soldi e scappa, è l'apertura del Manifesto. Per il Corriere della Sera, in prima pagina, stipendi, 10 anni in perdita. Mentre l'articolo 18 campeggia su Repubblica, Fornero dietro front sull'articolo 18 e Avvenire, articolo 18 colpo di freno, e così il Messaggero, articolo 18 Fornero frena. Per la Stampa, l'occupazione vera emergenza. Questi alcuni dei titoli, ne vedremo altri poi nel corso della rassegna stampa. Intanto, visto che noi parliamo di casta, basta questa demagogia contro il politico. Certo, non aiuta quello che è successo ieri al Senato per farsi un'idea convincente che sia tanta e sola demagogia quella della lotta alla casta. È successo sul tema di cui ci siamo occupati noi anche, il fatto dei doppi incarichi, i parlamentari che sono anche sindaci di comuni sopra i 20.000 abitanti. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice basta, non si può più, e infatti alla Camera molti hanno scelto, si sono dimessi. Vale anche per i presidenti di provincia. Ieri il presidente della provincia di Bergamo, Pirovano, ha lasciato la Camera perché rimane al presidente della provincia di Bergamo. Altri sindaci hanno optato anche per la Camera, per il sindaco, per rimanere sindaci, hanno lasciato la Camera. Al Senato, la Giunta per l'autorizzazione a procedere ha deciso che di questa sentenza della Corte Costituzionale, massimo organo giudiziario in Italia, se ne possono fare un baffo. Il Senato salva i sindaci senatori. Pagina 22 del Sole 24 Ore, PDL e Lega votano sì al doppio incarico per due sindaci salvati, il sindaco Azzolini e il sindaco Nespoli, sono i sindaci, uno di Afragola e l'altro di dove? Molfetta? Ebbene sì. Azzolini a Molfetta e Nespoli ad Afragola. Sono due sindaci. I sindaci senatori del Sud salvi grazie alla Lega. Questo è il titolo della pagina 6 della Stampa. Sì, perché la cosa strana è che ha votato a favore di questa norma anche i due deputati che sono in giunta della Lega. E quindi c'è l'ironia. Hanno salvato due sindaci del Sud. Marco Follini, presidente della Giunta al Senato, a pagina 3 dell'Unità, dice «è una cosa incredibile, in punta di diritto è così. Si è deciso che la decisione della Giunta del Senato pesa di più di una sentenza della Suprema Corte». Il Fatto Quotidiano, una pagina, pagina 4, «doppi incarichi, la casta fa blocco al Senato». E sul Corriere della Sera il leghista Mazzatorta, senatore, che è spesso stato nostro ospite, uno dei due membri della giunta leghista che ha votato contro Questa sentenza della Corte Costituzionale, per non recepirla e dunque per salvare i sindaci senatori, dice: basta questa logica e demagogia anticasta. Anch'io sono sindaco a Chiari in provincia di Brescia e non prendo un euro perché non c'è il cumulo degli stipendi. Ma sì, basta questa logica anticasta. Vedete che calza a pennello con il tema che tratteremo dalle 8:20. Vi voglio raccontare dal Corriere della Sera intanto una storia firmata da Sergio Rizzo, che trovate a pagina 11. È una storia un po' intricata, cercate di seguirmi, perché riguarda l'attuale ministro della funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi. Casa al Colosseo con il mega sconto, così Patroni Griffi ha sconfitto l'INPS. Racconta Sergio Rizzo quanto sia piccolo il mondo, almeno quel certo mondo degli alti burocrati pubblici impermeabili ai rovesci istituzionali e politici, lo dice la vicenda di Roberto Chieppa, consigliere di Stato, specialista delle autorità indipendenti fin da quando nel 2000 ha fatto ingresso a Palazzo Spada. Soltanto dal 2000 al 2009 il suo nome compare in 47 giudizi. E ora si ritrova dall'altra parte della barricata, perché il ministro Passera lo ha indicato come segretario generale dell'antitrust. La strada di Chieppa incrocia quella del consigliere di Stato Filippo Patroni Griffi, attualmente ministro della funzione pubblica. Un incrocio che avviene nel 12 luglio del 2005. Perché? Con una modalità assolutamente inedita per due magistrati amministrativi, quel giorno Chieppa è infatti relatore di una sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato nella quale Patroni Griffi è parte in causa per una vicenda che lo vede opposto all'INPS. Quale vicenda vede opposto l'attuale ministro della funzione pubblica all'INPS? È questa. La vicenda riguarda la vendita di un appartamento. Quando ci sono le cartolarizzazioni volute dal governo Berlusconi, Patroni Griffi vive in un appartamento dell'INPS in via Monte Oppio 12 a Roma. Una cosa nota. Ebbene, le cartolarizzazioni danno agli inquilini la possibilità di acquistare l'appartamento con uno sconto del 30% e un'ulteriore riduzione del 13% se comprano in blocco, a meno che l'appartamento non venga dichiarato di pregio. Si chiede Sergio Rizzo: può un immobile che si trova praticamente davanti al Colosseo non essere di pregio? Ebbene, gli inquilini di via Monte Oppio 12 sostengono così, tra cui l'attuale ministro Patroni Griffi, e fanno causa, si rivolgono al TAR. Sono una ventina, tra loro c'è anche Giuliano Cazzola, attuale parlamentare. I loro avvocati sono abilissimi, uno in particolare, Carlo Malinconico, l'avvocato Malinconico, il quale oggi per la serie Quanto è piccolo il mondo si ritrova al governo insieme al suo cliente, ex cliente, Patroni Griffi, come sottosegretario alla presidenza. L'INPS però non ci sta, fa ricorso al Consiglio di Stato. Ma al Consiglio di Stato si gioca in casa, lì l'avvocato Malinconico era consigliere di Stato fino a un paio d'anni prima. Patroni Griffi invece è in quel momento al Consiglio di Stato, è collega di chi sta giudicando il suo caso. Per una curiosa coincidenza, il 18 marzo del 2004 ha anche partecipato a un'adunanza plenaria durante la quale è stato accolto un ricorso dell'INPS contro un gruppo di inquilini napoletani che lamentavano l'inserimento del loro immobile tra gli stabili di pregio. Insomma, sta di fatto che alla fine della storia gli inquilini di via Oppio 12, via Monte Oppio 12, vincono la causa e l'immobile non è considerato di pregio con vista Colosseo. Ce n'era un'altra di casa con vista Colosseo che aveva creato un po' di problemi a un politico. E quindi la casa viene acquistata, secondo legge, con lo sconto del 30%. Casa al Colosseo con il mega sconto, così Patroni Griffi ha sconfitto l'INPS. Lo so, la vicenda è un po' articolata, rileggetevela sul Corriere della Sera, pagina 11, Sergio Rizzo, ma fa capire quanto sia piccolo un certo mondo. Dov'è Oscar? Chiedono gli ascoltatori, qualche ascoltatore via sms al 349-238-6666. Dorme, spero, beato lui, arriverà più tardi ovviamente, vi eravate abituati troppo bene, eh? Allora, Continuiamo la lettura dei giornali, c'è l'articolo 18 ancora in primo piano. Perché? Perché ieri il ministro Elsa Fornero, dopo giorni di polemiche, di battaglie, di dibattiti infuocati anche con parole grosse che sono volate, grosse nel senso intense, ecco, a porta ha detto: sull'articolo 18 non ho in mente nulla di concreto e mai avrei pensato che il solo fatto di menzionare il tema in un'intervista avrebbe scatenato queste reazioni. La priorità è l'occupazione, questo è il titolo a pagina 10 del Sole 24 Ore, l'articolo di Davide Colombo con il ministro Elsa Fornero che frena sui licenziamenti, appunto ha detto non ho nulla in mente sull'argomento. Si è innestata anche una polemica con il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, perché tutto è nato da un'intervista che il ministro Fornero appunto ha rilasciato al Corriere. Ha detto poi il ministro Fornero: io sono pronta a dire dell'articolo 18, ha usato un po' di ironia, sono pronta a dire che neanche lo conosco, non l'ho mai visto, c'è tanto da fare prima di arrivare lì, sono stata vittima di una trappola, sono caduta in una trappola. Al che subito su Twitter, che è ormai lo strumento di comunicazione più efficace e più rapido, il direttore del Corriere De Bortoli ha scritto: è caduta nella trappola di se stessa. Al che la Fornero ha dovuto rettificare: non mi riferivo al Corriere della Sera quando parlavo di trappola. Sta di fatto che anche con un gran pasticcio lessicale, per il momento questa vicenda sembra archiviata. Secondo il Messaggero è stato il premier Mario Monti in persona a chiedere a Elsa Fornero di fare un dietro fronte, un passo indietro su questa materia molto molto delicata, molto spinosa, quella della riforma del mercato del lavoro, soprattutto se si parte lancia in resta, come ha fatto subito menzionando l'articolo 18, un qualcosa che sembra un tabù intoccabile in Italia. C'è un'intervista a Walter Veltroni, l'ex segretario del PD su Repubblica, intervistato da Goffredo De Marchis, dice: sul lavoro serve certo una ripartenza, iniziamo con la concertazione, ma è inutile parlare di licenziamenti, ripartenza vuol dire invertire la scala delle priorità, si può discutere della norma sulla giusta causa, ma non cominciando da essa. Più duro invece l'attuale leader del Partito Democratico Bersani, che ha detto: cancellare ora l'articolo 18 sarebbe da matti, toccarlo è una cosa da matti. Anche il Corriere torna sul tema intervistando un'altra persona, ieri aveva intervistato Cesare Damiano, ex ministro del lavoro, oggi un altro ministro ex del lavoro, Tiziano Treu, che andò in Danimarca a studiare quel modello flexicurity che è il cavallo di battaglia di Pietro Ichino all'interno del Partito Democratico, fa molto discutere. E Treu, intervistato oggi dal Corriere, appunto a pagina 2 e 3, dice: il mercato del lavoro non è solo l'articolo 18, neanche l'OCSE ci chiede più di modificarlo, forse qualcuno ha voluto aizzare la discussione, ci sono tante cose da fare sul tema dell'occupazione. Per esempio più ammortizzatori, meno tipi di contratti, dunque ridurre il numero di contratti, quando si faranno tutta una serie di cose preliminari, se vogliamo arrivare poi alla discussione licenziamenti, al controllo delle uscite, vedremo in che condizioni saremo dopo che avremo ottenuto tutte le cose che ci chiede l'Europa prima, senza fretta dunque. Insomma, sembra che la partenza sul tema della modifica e sulle riforme del mercato del lavoro sia stata una falsa partenza, questa del ministro Fornero, se non altro entrare a piedi uniti sull'articolo 18 ha suscitato un gran polverone di polemiche e ora la marcia indietro. Tra l'altro la politica oggi si interroga su che cosa? Beh, oggi la politica intanto vede il giorno della manovra, dell'approvazione, dovrebbe essere l'approvazione definitiva, è stata chiesta la fiducia anche al Senato, il voto dovrebbe arrivare entro oggi e dunque entro Natale sarà legge la manovra del cosiddetto decreto Salva Italia. Subito ieri si è scatenata, l'abbiamo sentito nel giornale radio, l'ennesima bagarre della Lega, ma ormai non è neanche più una notizia, ormai è una strategia politica, quella di fare un po' di casino anche con i fischietti. Ieri con il presidente del Senato Schifani che si è molto arrabbiato, ha detto: siamo in una curva da stadio, dovete vergognarvi. Ieri hanno utilizzato questa manovra dei fischietti, anche un enorme striscione su sfondo verde padano, governo ladro, srotolato nell'aula di Palazzo Madama, subito con l'intervento dei commessi. Sta di fatto che la politica ieri Monti ha incontrato Berlusconi. E nell'incontro Berlusconi, c'è un Berlusconi che è un po' a due facce, è un Berlusconi che nelle dichiarazioni ufficiali continua a dare sostegno a Monti, saremo leali, domani Monti vedrai Alfano, vedrà anche tutti i capigruppo, vedrà anche Bersani. Berlusconi ha detto noi sosteniamo Monti, certo ci deve consultare su ogni provvedimento, siamo il partito ancora più rappresentativo all'interno del Parlamento. E invece è un Berlusconi che poi quando parla ai suoi in consessi più chiusi, non a porte aperte, è un Berlusconi più di lotta. Tutti i giornali riportano questa frase di Berlusconi ai suoi parlamentari: ci consulti su ogni provvedimento o altrimenti andiamo al voto. E soprattutto se insistono sulla questione del fisco andiamo alle urne e vinciamo. È dunque un Berlusconi che non si capisce se da una parte faccia un appoggio incondizionato, dall'altra parte forse per tenere buono anche l'ala del partito, i cosiddetti più malpancisti, coloro che non sopportano questa, che reputano una sospensione della democrazia, allora vuole tenerli buoni con discorsi un po' più duri, come dire minacciare il voto. Voglio segnalarvi però una serie di articoli che mi hanno colpito oggi dai giornali, che riguardano tutti noi italiani. Il primo è l'apertura del Corriere della Sera. Stipendi, 10 anni in perdita. È un dossier sui salari di tutti noi che trovate a pagina 8 e 9. Tasse e inflazione deprimono i salari degli italiani. Dal 2000 ad oggi il potere d'acquisto è calato di 5.340 euro. È aumentata la differenza tra i salari più ricchi e quelli più poveri. Su questo terreno l'Italia continua a perdere posizioni nei confronti internazionali. E certo sono dati inquietanti per quel che riguarda le retribuzioni dei lavoratori, che si sono abbassate, sono sempre più tartassate. Negli ultimi 15 anni, scrive Enrico Marro, hanno perso terreno nei confronti internazionali, la differenza tra i salari più ricchi e quelli più poveri è aumentata. Per esempio, utilizzando i dati OCSE del 2010, l'Italia si colloca al 22esimo posto su 34 nella classifica dei paesi più industrializzati, con 25.155 dollari, vale a dire 19.350 euro al cambio di ieri. 1.000 euro in meno della media OCSE, 4.000 in meno della media dell'Unione Europea, quando era un'Unione Europea a 15. Nel Regno Unito, per esempio, la retribuzione netta è stata di 11.000 euro superiore a quella della media italiana. In Germania hanno preso quasi 5.000 euro in più che da noi, questo in media, in Francia 2.000, in Spagna ci hanno superato 1.500 euro in media in più rispetto alle retribuzioni italiane, l'Italia è ultima per il livello di salario netto tra i paesi del G7. E poi tutta una serie di analisi sulle spiegazioni, e dunque inflazione e tasse pesano, busta paga ferma da 10 anni, questo è il titolo del dossier del Corriere della Sera, pagina 8 e 9, non certo positivo. Mi ha molto colpito anche un'analisi e un dossier di Repubblica, pagina 10 e 11, sull'ICI o IMU, come la volete chiamare. Sulle esenzioni dell'ICI, perché spesso si è parlato della Chiesa, del fatto che la Chiesa cattolica usufruisce per quegli stabili a uso non strettamente commerciale di un'esenzione prevista dalla legge. Quella stessa legge che prevede esenzioni anche per i sindacati, per le onlus, per chi lavora insomma nel no profit. Ebbene, Repubblica è andata a vedere chi gode di queste esenzioni a Roma. Fondazioni, politiche, tennis club, la capitale che non paga l'imposta sugli immobili. Anna Maria Liguori, Giovanna Vitale e Corrado Zunino, 3 firme per questa inchiesta, 3.000 esentati dall'ICI, ma non tutti sono senza fine di lucro. Ci sono ovviamente, per esempio, eccolo qua, il Circolo Canottieri Tevere Remo, che al suo interno ospita bar, ristoranti, sale di lettura e biliardo, perché non paga l'ICI? Il tennis club Parioli, dotato di 22 campi da tennis, 3 per il calcetto e una palestra attrezzata. Certo, la fanno da padrone le parrocchie, 722, le chiese, 104, ma ci sono poi 600 fondazioni politiche, bancarie, farmaceutiche, dalla Pfizer alla Telecom, la Dalemiana Italiani Europei, la Mediolanum di Doris, i figli del Littorio, che offrono borse di studio alla prole degli aviatori. Ci sono associazioni come i podologi, i fioristi, l'Unione per la produzione della patata. L'Unione per la produzione della patata non paga l'ICI. Perché? La tutela dei cavalli da trotto, l'Istituto Italiano Alimenti Surgelati. Perché non pagano l'ICI? Ma perché non pagano l'ICI? No, chi lo chiede Repubblica. L'Unione per la produzione della patata. Ce lo faranno sapere all'Unione per la produzione della patata perché non pagano l'ICI o alla quella per la tutela dei cavalli da trotto, nonché all'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, così scrive Repubblica. Altri due articoli che mi hanno colpito, beh, sappiamo che l'Italia è il paese dei condoni. È una notizia che è un po' sfuggita, è un po' passata sotto traccia. La protesta di alcuni abitanti di Bacoli, in provincia di Napoli, dove si devono abbattere delle villette, costruzioni abusive. E quindi subito popolazione che si mette davanti alle ruspe. E Gian Antonio Stella oggi scrive in prima pagina: mai dire mai, la Campania vuole un altro condono. Questo è il titolo, cari ascoltatori. Ma certo che tocca il cuore vedere le ruspe abbattere la casa di Bacoli dove vive e viveva Jessica, la ragazza disabile presa a simbolo da tutti gli abusivi. È vero, troppo spesso le rare case buttate giù sono di poveracci che non hanno l'avvocato giusto. Ma la soluzione qual è? Un'altra sanatoria, come vorrebbe la Regione Campania, giurando che stavolta sarebbe davvero l'ultimissimissimissimissima? Ebbene, la proposta del PDellino Luciano Schifone, nomen omen ringhiano gli ambientalisti, fatta al Mattino, è questa. Si tratta solo di sanare i piccoli abusi, gli aumenti volumetrici non oltre il 35% previsti dal piano casa regionale varato nel dicembre 2009, realizzati prima che quel piano fosse approvato. Per di più è previsto un aumento del 20% degli oneri di urbanizzazione. Sintesi, in fondo gli abusivi hanno abusato prima che l'abuso fosse legalizzato dalla legge della regione. E dunque Gian Antonio Stella scrive: la Campania vuole un altro condono, sanare i piccoli abusi, no? E attraverso questa formula che si ripete, sanare dei piccoli abusi, poi succede che avvengono le grandi sanatorie. Volete un altro articolo che mi ha colpito? Ah, oggi vi faccio arrabbiare con questi articoli, lo so. Il Giornale, pagina 8, in pensione a 45 anni, in Sicilia ancora si può, e scatta la grande fuga. La vicenda riguarda la legge 104 del 92, quella che consente di andare in pensione per chi deve assistere un parente disabile, recepita dalla Regione Sicilia in un modo sui generis. Se sei un dipendente della Regione Sicilia puoi andare in pensione con 25 anni di contributi se sei uomo, 20 anni di contributi appena se sei donna, usufruendo della legge 104, cioè se devi assistere a un parente disabile. La Regione Sicilia voleva cambiare quella che in tutta Italia viene recepita in modo diverso, cioè non con 25 anni di contributi o 20 per le donne. Appena si è fatto questo annuncio, ecco che stanno aumentando in maniera smisurata i dipendenti della Regione Sicilia che, improvvisamente abbiamo scoperto che abbiamo un parente disabile da assistere e quindi voglio andare in pensione in fretta e furia prima delle modifiche in arrivo con la legge 104. Il Giornale racconta di come i dipendenti della Regione siano in subbuglio. Sarà cancellata la legge che fa andare a riposo con 25 anni di contributi, 20 per le donne, e dunque tutti a chiedere la pensione all'ultimo, come se fossero spuntati di colpo una serie di parenti disabili che uno scopre. Tra l'altro, il giornale mette insieme a questa vicenda l'indecenza del governatore lombardo, povero con 16.000 euro al mese. Tenetevi forti, cari ascoltatori, le mani sempre abbracciate al volante, non lasciatelo, perché udite che cosa ha detto il governatore della Sicilia. La mia paga, la sua paga è 15.683 euro netti al mese. 15.683 euro. Peter scuote la testa, non ho capito perché. Guadagni meno tu? 15.683 euro al mese. Il governatore lombardo dice questa paga è appena decente. Tenendo conto dei rischi e delle responsabilità che affronta un governatore, se lo dobbiamo rapportare a questo, dovrei almeno guadagnare il triplo. 45.000, anzi di più, insomma sui 46.000 e rotti euro al mese. Continuiamo l'arrabbiatura, cari ascoltatori. Poi c'è la gioia finale, eh? Il titolo di Libero: ballano con i nostri soldi. Pare ufficiale, Vieri e Gianni Rivera andranno a Ballando con le Stelle e a Vieri pare andranno 630.000 euro di compenso. Viene intervistata Milly Carlucci, che dice, la conduttrice, su Libero, a pagina 3, intervistata da Alessandra Menzani, la cifra non è quella, poi non sono autorizzata a parlarne, ma insomma siamo una trasmissione che non prendiamo un soldo dal canone e poi tutto quello che facciamo va in ritorno di pubblicità, guadagniamo molto con la trasmissione, è una trasmissione che va benissimo, di cosa campano i lavoratori Rai? Non campano certo del canone, i 15.000 operai della Rai, chi li mantiene? Vogliamo finire come Alitalia, diventare un caso nazionale? Insomma, la conduttrice dice è un artista, è una brava persona, ci porta tanti soldi e viva Bobo Vieri che ballerà per 630.000 euro, sempre che la cifra sia quella. Cifre ben diverse sono le cifre che hanno preso le banche ieri: 489 miliardi di euro per l'asta della BCE, parliamo di altre cifre, di temi ben più seri che riguardano tutti noi, trovate tutti i dettagli a pagina 3 del Sole 24 Ore. E che dire, siamo quasi in chiusura? Sì, mancano 40 secondi? Ebbene sì, eccola allora la notizia bella, dopo tante notizie negative. Il Milan è in testa alla classifica. E certo, come no, Peter ride, il Milan si è svegliato di colpo. Il Milan è in testa alla classifica, ieri c'è stato il campionato. Juve-Milan, Natale in tandem, questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. Ebbene sì, la Juventus ha pareggiato e dunque in virtù di questi risultati, di questo pareggio, le maglie rossonere sono in testa alla classifica con la Juventus e con la Pro Sesto, che da 2 anni è in testa alla classifica, il campionato d'eccellenza girone A Regione Lombardia, ma nessuno ne parla. 24 mattino. Eccoci qua. Ben ritrovati da Alessandro Milan, buongiorno cari ascoltatori. Allora, dagli al politico, oggi l'abbiamo voluta titolare così la trasmissione, perché ormai dilaga o sembra dilagare sempre più il sentimento contro la casta dei politici, ma è davvero un sentimento tutto giustificato, c'è anche una forte spinta demagogica, populista. Intanto ne vogliamo parlare, ne parleremo fino alle 9, starà con noi fino alle 9, poi si aggiungeranno anche altri ospiti, ma saluto il primo ospite, il senatore Andrea Fluttero, buongiorno del Popolo della Libertà, buongiorno senatore. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, il senatore Fluttero cosa ha fatto? Ha fatto una lettera, più che un appello, una lettera di 44 righe, ne ha scritto anche Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, un appello ai colleghi parlamentari, io la sintetizzo così. Premesso che la politica ha perso molta autorevolezza, detto che nel Senato della Repubblica ci sono parlamentari dirigenti, docenti, insegnanti, avvocati, imprenditori, medici, farmacisti, fatte queste premesse, per questo io, cioè io senatore, mi impegno a svolgere con rigore e serietà il ruolo del legislatore che sto ricoprendo. Perché ha fatto questa iniziativa, senatore? Ma perché da molto tempo noi parlamentari, tra virgolette, normali, cioè parlamentari che non sono alla ribalta in positivo o spesso in negativo delle cronache, viviamo questo disagio, non tanto per noi personalmente, quanto per l'istituzione che rappresentiamo. Ci spiace, siamo convinti che sia un errore demolire la credibilità delle istituzioni. E dell'intera classe politica, dice. Demolire i parlamentari attraverso la credibilità dei parlamentari, e per carità molti o comunque alcuni colleghi parlamentari non hanno fatto nulla per impedire questo, anzi hanno dato spesso pretesto con i comportamenti. Però, come si dice, spesso fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Certo. Ora noi non è che cresciamo, però quantomeno cerchiamo di fare in tanti il nostro lavoro. Senta, quanti gli hanno risposto? Quanti hanno aderito a questo appello? Devo dire che allora io ho mandato questa lettera in forma di bozza. Sì. È un impegno che in qualche maniera propongo di riassumere ulteriormente, dando importanza a questo nuovo, a questa nuova sorta di giuramento di fedeltà e di impegno serio verso la Repubblica e verso l'istituzione nella quale siamo. L'ho mandata in forma di bozza proprio per chiedere pareri, opinioni, osservazioni. Per ora? E devo dire che si sta concretizzando un'ampia condivisione, e credo che dopo le vacanze potremmo rifinirla nei dettagli e magari sottoscriverla in molti. Perché all'inizio leggevo da Roncone che erano pochi, no? Due o tre, un'accoglienza un po' freddina. Nei primi giorni sì. D'altra parte io l'ho mandato via mail per comodità, perché siamo 315, l'ho mandato ovviamente, io sono del PDL, l'ho mandato ovviamente a tutto il Senato della Repubblica. Beh sì, ci mancherebbe. Il riferimento che lei faceva all'inizio del numero dei dirigenti, docenti, avvocati, imprenditori eccetera, io l'ho fatto perché devo dire, quando sono arrivato in Senato avevo un minimo di presunzione per il curriculum e per la gavetta che ho fatto io, perché io sono un piccolo imprenditore, poi ho fatto per molti anni nei ritagli di tempo amministrazione comunale, poi questa cosa ha preso sopravvento e quindi sono stato consigliere comunale, consigliere provinciale, sindaco di una città, di Chivasso e via di seguito, quindi avevo un po' la presunzione di essere uno, rispetto magari agli altri politici, che si era fatto la sua bella gavetta. Quando sono arrivato lì ho cominciato a guardare i colleghi, a conoscerli, a vedere i profili e i curriculum che avevano, oggettivamente mi sono reso conto della grande qualità di persone che c'è in Senato. Sì. E mi sembra davvero strano che tutto di un colpo queste persone, da tecnici, da professori, da prefetti, fossero diventati incapaci. Diventino. Ma senta, ma cosa c'è? Sentimento anticasta, lei come lo definisce? Cioè, non aiuta, per esempio, leggere sui giornali che ieri al Senato si è votato contro l'incompatibilità di sindaco e parlamentare, no? Per i sindaci sopra 20.000 abitanti, per salvare due sindaci. Cioè, non aiuta questo. No, ma io con questa mia iniziativa non intendo dire che noi siamo esenti da colpe. Adesso, nel merito di ieri, non so dirle, perché è una votazione che è stata fatta in giunta per il regolamento e non in aula, quindi non conosco i termini. Credo però che non aiutino alcuni episodi dei quali alcuni miei colleghi nel tempo si sono identificati, come non aiuta una generalizzata ondata di antipolitica che rischia di demolire alla base istituzioni fondamentali e indispensabili per un sistema democratico. Per esempio, queste cose che si scrivono sul ristorante del Senato, i barbiere al Senato, gli stipendi, cosa sono? Sono verità? I privilegi? Lei si sente un privilegiato da senatore? Certamente, guardi, io sono un normalissimo perito grafico, rispetto agli studi che hanno molti miei colleghi mi sento davvero un cittadino che sta temporaneamente e forse in maniera anche immeritata svolgendo il ruolo di senatore, per cui sono molto, alle volte sono anche imbarazzato nel sedermi in Senato e cerco di svolgere questo ruolo con impegno. Credo che alcune delle prerogative che sono dei senatori siano prerogative assolutamente normali a livello di Camera Alta di un paese importante come l'Italia. Cioè, io credo che lo stipendio, per esempio? Le faccio dei nomi del PD. Il generale Del Vecchio, il professor Ichino, il dottor D'Ambrosio, sono un generale, un professore universitario e un magistrato. Il prefetto De Sena, il giornalista Sergio Zavoli, l'economista Nicola Rossi, per parlare di colleghi avversari. Potrei fare nomi di altrettanti colleghi della mia parte politica, Lamberto Dini, che è stato direttore generale della Banca d'Italia. Cioè, questi sono, secondo lei, i profili il politico? Marcello Pera, che è un filosofo. Queste persone, nel loro ambito professionale di carriera sì. universitaria, non sarebbero state trattate a pesci in faccia, non avrebbero dovuto andare a mangiare il panino al bar, avrebbero avuto la mensa dell'università piuttosto che non tutta una serie di competenze e di possibilità di rispetto anche per il ruolo che ricoprivano. Quindi, quindi non è che dice, no, lei contesta questo fatto che si vinca la lotteria entrando in Parlamento? Per qualcuno può essere per qualcuno sì, per molti altri. No, però è interessante l'idea di non delegittimare tutta la classe politica. Lei rimanga con noi, senatore, perché ne discuteremo fino alle 9, ma ci dobbiamo fermare per qualche minuto, la pubblicità e il meteo, poi ci raggiungeranno Massimo Fini, scrittore intellettuale, e Francesco Piccolo, scrittore anche lui intellettuale, che ieri, nei giorni scorsi, hanno scritto di questo tema, sull'unità e sul Fatto Quotidiano, e continuiamo la discussione anche con le vostre chiamate 800 24 00 24. C'è troppa demagogia nella lotta alla casta dei politici? Allora, le 8:34 minuti, siamo ancora con il senatore Andrea Fluttero, che ha fatto un appello, una sorta di lettera a tutti i senatori. Il senso, ci ha spiegato, è insomma, non delegittimiamo tutta una classe politica perché qualcuno sicuramente ha dei privilegi, qualcuno magari ha vinto la lotteria, qualcuno si mette in mostra in senso negativo, ma in Parlamento siedono anche tantissime persone competenti. Di questo vogliamo parlare, abbiamo intitolato questa puntata Dagli al politico. Ci hanno raggiunti, e voglio salutarli, Francesco Piccolo, intellettuale, scrittore, buongiorno Piccolo. Buongiorno. Ieri sull'Unità si tiene una rubrica settimanale, ieri ha fatto un intervento dal titolo In difesa della politica, che sintetizzo molto molto in sintesi, poi ci spiegherà Piccolo ovviamente. Così, guai a delegittimare la politica, certo ci sono delle cose che vanno denunciate, ma l'errore sarebbe proprio quello di pensare che si può liberamente aspettare fuori dal palazzo di Montecitorio i parlamentari per insultarli, fischiarli, considerarli la feccia del paese, a meno che non si voglia tornare al qualunquismo di Guglielmo Giannini, che ebbe spazio in Parlamento. Saluto anche Massimo Fini, anche lui intellettuale, scrittore, buongiorno Fini. Buongiorno a voi. E ben ritrovato, ha scritto di questo sul Fatto Quotidiano, e tra l'altro il sunto invece del suo intervento è proprio questo: la classe politica sempre ci ha delegittimato, la partitocrazia ha in pratica schiacciato la democrazia in Italia, e conclude il suo intervento Fini, magari tornasse buona l'idea del fondatore dell'uomo qualunque, il Guglielmo Giannini, cioè che ci guidino ai governi dei ragionieri dello Stato nominati per 5 anni e poi non rieleggibili. E allora, insomma, ci esercitiamo su questo. C'è troppa antipolitica. Piccolo, lo chiedo intanto a lei, perché ha fatto questo intervento appassionato in difesa della politica, la politica ovviamente quella giusta, quella per bene? Ma io credo che ci sia ancora uno spazio necessario in Italia e che non deve essere occupato da altro che dal mestiere della politica. In fondo il mio articolo parlava proprio di questo, perché credo che da molti anni, diciamo, io dico dallo scoppio di Tangentopoli, quindi da più di 20 anni fa, da 20 anni fa ad oggi, l'idea del mestiere della politica è un'idea ormai completamente negativa, è una cosa che di cui ha approfittato Berlusconi per andare al potere e di cui ormai si parla con grande libertà e convinzione. Io sono convinto invece che il mestiere della politica e il suo fulcro principale, che è il Parlamento, siano ancora la base fondamentale di questa Repubblica. Però che cosa fanno quei giornalisti che anche lei dice giustamente denunciano? Cioè, un giornalista deve rispondere della veridicità di quello che scrive, voglio dire, nulla di più, se scrive una cosa vera o scrive una cosa falsa. E quindi che cos'è però quella campagna che si legge contro la casta? Una campagna sbagliata, una campagna esagerata, dai toni volutamente esagerati? Allora, io credo che questa campagna e questo nome sia nato soprattutto dal libro di Stella e Rizzo, che invece hanno fatto un'indagine approfondita e seria, una vera indagine giornalistica sui privilegi di una classe politica e sui privilegi, anche questo scritto ieri, non c'è nessun dubbio che vada fatto proprio un ripulisti totale. La questione però è un'altra, credo che questa cosa si stia cominciando a confondere con quella irrazionale, rabbiosa, rancorosa idea molto popolare, come si dice, da tram, da autobus, che appunto là sopra sono tutti uguali, è tutto magna magna. Queste due cose, una denuncia seria e invece un qualunquistico appunto negativismo nei confronti della classe politica, si sono confuse, sono diventate la stessa cosa. C'è quindi un'idea diffusa completamente negativa, non tanto della classe politica, poi non ne parliamo, c'è tutto un discorso da fare su questa legislatura, ma sulla politica, proprio sull'idea sì, di politica, sulla politica in generale. Ma su questo infatti vorrei andare da Massimo Fini, leggendo anche quando il senatore Fluttero, che è qui dalle 8:20 con noi, in maniera pacata ha detto le sue rimostranze, a dire ma insomma non siamo tutti uguali, c'è qualcuno magari che si mette in luce in maniera negativa nella politica, ma ci sono persone rispettabilissime che fanno politica. I messaggi che sono arrivati ai nostri ascoltatori al 349-238-6666, caro Massimo Fini, sono: ma come si fa a credere ai politici, sono tutti là, ladri, farabutti, impicchiamoli tutti, buttiamoli tutti fuori dal Parlamento. Ecco, Fini, non spaventa, diciamo, questa idea di diffuso qualunquismo sull'intera classe? No, nel senso che i partiti si sono screditati da soli e non da oggi, neanche da Tangentopoli, ma da prima. Il debito pubblico è stato accumulato in buonissima parte perché i partiti, per conquistare il consenso, hanno fatto leggi che andavano bene a questo o a quell'altro, pensiamo a tutte le storie delle pensioni per esempio. I partiti hanno fatto una politica clientelare, sempre per conquistare il consenso. Se tu non sei infeudato in un partito, fai infinitamente più fatica degli altri. I partiti sono screditati poi col fatto che non ci fosse un solo appalto che non avesse tangente politica, cioè gassavano denaro pubblico e privato. Si sono ulteriormente screditati dopo Mani Pulite perché i giudici sono diventati veri colpevoli e i ladri sono diventati le vittime e giudici dei loro giudici. In più c'è l'ultima stagione berlusconiana, che diciamo che è la ciliegina sulla torta marcia, ma che non cambia nella sostanza le cose. Voglio anche ricordare che i partiti, cioè i grandi padri di questo sistema liberal-democratico, cioè Locke, Stuart Mill, Montesquieu, non fanno mai cenno ai partiti. E Max Weber notava come fino al 1920 i partiti non fossero neanche nominati in Costituzione. Però Fini, qual è la soluzione? No, momento, fermo. Qual è la soluzione? Come dicono lì, mi lasci concludere il ragionamento. Come dicono là, va bene. Ecco, perché si capisce benissimo, perché la lobby, il partito, la cosa è il contrario del pensiero liberale, che voleva valorizzare capacità, merito e potenzialità dell'individuo singolo, e che sarebbe il cittadino ideale di una democrazia se esistesse davvero, e che invece ne diventa la vittima designata. Quindi non è colpa mia o di altri se oggi... Sono loro, sono i partiti. Ecco, poi non è detto, è chiaro che in Parlamento c'è anche della bravissima gente e tutto quanto, ma è una questione di sistema in Italia, è così. Ha capito, senatore Fluttero, lei è un piccolo granello di un sistema che lei non riuscirà mai a cambiare, questo la dico così, Massimo. Sicuramente, ne sono consapevole. Credo che però tutti i piccoli granelli debbano comunque, anche in una situazione complicata come questa, fare il loro dovere giorno dopo giorno. Questo sì, però Fini, non ho capito perché la soluzione finale sarebbe quella dell'uomo qualunque, facciamoci governare da un ragioniere dello Stato per 5 anni non rieleggibile, un po' alla Beppe Grillo. Su questo con Francesco Piccolo la vedete in maniera ben diversa? Beh, naturalmente quella è forse una battuta, è una forzatura, però c'è da tenere presente questo, che quando Giannini propose appunto questa soluzione, eravamo all'epoca delle grandi ideologie dove effettivamente c'erano divisioni fondamentali fra un sistema di tipo marxista e un sistema di tipo liberista, e quindi i partiti DC, PSI, PC avevano un senso forte. Credo che si entrasse in politica con grandi idealità, magari poi sbagliando, ma con grandi idealità. Oggi non è più così. Nel momento in cui la sinistra accetta il libero mercato, le differenze fra destra e sinistra sono di poco conto, la sinistra poggerà un po' più sul welfare, la destra no, ma non è che ci siano queste appunto differenze di fondo, per cui forse non i banchieri che hanno i loro interessi, le loro cose e tutto quanto, ma un ragioniere dello Stato che perlomeno eliminerebbe tutte le spese. Vediamo un po', no, infatti Piccolo, che ne pensa questa conclusione, che lo stesso Fini dice forse un po' una provocazione, però è proprio l'idea dell'antipolitica che ha designato lei, no? Sì, devo dire che appunto Fini dice che è una battuta paradossale, ma in fondo chissà, forse si è già realizzata con questo governo dei ragionieri non rieleggibili. In qualche modo il governo Monti è fatto in questo modo, ovviamente sto dicendo anche io in maniera paradossale, ma in fondo è al di fuori dei giochi politici, o almeno così dovrebbe essere, e comunque si è designato non rieleggibile. Nella sostanza, certo, è vero che la differenza netta che c'era ai tempi dell'Uomo Qualunque, ai tempi della DC e del PC, era una differenza ideologica evidente e che divideva molto, però bisogna anche dire che anche guardando i sistemi delle altre nazioni, in una democrazia le differenze tra destra e sinistra sono più sfumate, però la differenza tra uno Stato che persegue il welfare e uno Stato che non lo persegue, comunque è una differenza che divide una popolazione una popolazione che deve eleggere e dei parlamentari e quindi dei partiti. Mm-hmm. E poi c'è da dire un'altra cosa, in questo senso invece potrebbe essere virtuosa, perché uno dei grandi limiti nella storia italiana, nella storia della governabilità italiana, è stato proprio quello, soprattutto parliamo degli ultimi anni del bipolarismo, è stato proprio quello di tentare di costruire da una parte e poi quando arrivava un governo opposto distruggeva e ricostruiva. Come distruggeva e come costruiva, questo per un altro discorso, mentre invece in uno Stato democratico virtuoso le differenze, che pure ci sono comunque sempre costruttive, perché si prende il meglio dalla parte opposta. In Italia non è così, insomma, si arriva, si butta giù quello che è stato fatto così, e continua a non esserlo in qualche modo. Credo che ogni volta che si è andato al governo Prodi o al governo Berlusconi, appunto, a prescindere dalle poche cose che hanno fatto. Prima si fa tabula rasa. Fermiamoci un attimo, ci sono le informazioni sul traffico, poi vorrei chiedere a qualche ascoltatore, 800 24 00 24, insomma, dagli al politico, c'è troppo accanimento oppure è un accanimento giusto? Allora, darei la parola a Marisa, dalla provincia di Roma, buongiorno. È pronto, buongiorno. Senta, io sentivo il dibattito, sì. Io sono una dipendente pubblica, lavoro, quindi tutta la mattina poi sto in macchina, ascolto sempre, sì, la radio, e veramente sono proprio indignata coi politici. Io ho 58 anni e quindi di storia ne ho vista, di politica ne ho vista. Mi stupisce il fatto che i politici prendono il lavoro di politico, che in greco significa governare politica la città, quindi coi soldi di tutti, coi soldi dei cittadini, indignati, indignata, perché sento i politici che parlano di lavoro. Sì. Il lavoro non è la politica, è una missione, Che dovrebbero farla gratis? Allora, no. Che dovrebbero fare? Secondo me, quando entrano al Parlamento, alla Camera, alle Camere, dovrebbero la prima cosa non essere retribuiti, ma bensì mostrare il loro rendimento annuale, la loro dichiarazione dei redditi e percepire quanto hanno dichiarato. Mm-hmm. Forse è una forma corretta. Cioè, questa. Per prendere come stipendio quello che loro dichiarano, come se uno fa l'operaio e viene eletto, continua a prendere lo stipendio da operaio. Se uno fa questo, sta dicendo lei, Marisa, come proposta, cioè non uno stipendio uniforme da parlamentare. E allora forse stanno coi piedi per terra, non stanno su un pianeta a parte, perché per anni di politica nessuno è stato licenziato, perché poi le persone sono semplici, lavorano, si arrabattano con le bollette, con le spese, con la disoccupazione dei figli. Quindi è stata chiarissima. Non hanno tempo di istruirsi e fare teologi e politici. È stata chiarissima. Grazie Marisa. Angelo da Varese, buongiorno. Buongiorno Alessandro, lei e i suoi ospiti. Volevo dire una cosa che forse sarà un po' impopolare in realtà in questo momento. Cioè, io credo che un Parlamento così rappresentativo sia rappresentativo di quello che è l'Italia. Cioè, io quando vedo certi comportamenti loro non le trovo così dissimili da comportamenti degli italiani in genere. Detto questo, non credo che tutti siano ladri, criminali, come non tutte le persone che conosco lo sono. Quindi, secondo me, una cosa che bisognerebbe fare rapidamente è, prima, ridurne drasticamente il numero, ma secondo, dare una reale visibilità di ciò che fanno e di ciò che hanno, in maniera comprensibile a tutti. Cioè, non su dei siti internet dove se non hai una laurea in economia non sei in grado di capire tutti i movimenti. Cioè, fare degli indici, dei benchmark europei, o comunque dare una quantità del lavoro che fanno, e non credo che non pagando sia la soluzione. La produttività. Grazie Angelo. Come diceva Churchill a chi gli faceva notare che il 4-5% in Parlamento erano i cretini, e diceva: vabbè, evidentemente il 4-5% della popolazione è cretina ed è giusto che proporzionalmente venga rappresentata in Parlamento. Cioè, Massimo Fini, il Parlamento siamo noi? Una rappresentazione di noi come paese, oppure lì c'è la feccia della feccia? Ecco. No, siamo perché? Noi, ma no, questo non vale solo per l'Italia, vale per tutte le democrazie. Dal momento che la democrazia diventa rappresentativa, è chiaro che si crea uno stacco fra una oligarchie, aristocrazie mascherate, che sono queste, e che non hanno neanche i compiti, gli obblighi delle retroscene storiche, e la popolazione, quello che notiamo da moltissimi anni, da almeno 30 anni. Però Fini, qui c'è il senatore Fluttero, gli dica qualcosa, cosa dovrebbe fare il senatore Fluttero? Fluttero, l'ho detto nell'articolo, sono assolutamente convinto che nel Parlamento ci sia anche persone per bene e colte, ma non è una questione di persone, è una questione di sistema. Prendiamo una delle cose più gravi, è il fatto che i partiti occupano spazi che non li dovrebbero assolutamente spettare. La Rai Televisione è l'esempio emblematico, ma tutto ciò che è stato e parastato è occupato dai partiti. Ma da dove viene questa cosa? I partiti anche nella nostra Costituzione sono trattati in un unico articolo dove si dice che i cittadini hanno diritto di associarsi in partiti per concorrere a formare la volontà nazionale, ma non è un dovere, è un diritto. Non è che uno che è fuori dai partiti debba essere un paria di questa società come è l'appartenenza. Perché questo in realtà, ahimè, mi spiace dirlo, al di là della buona volontà di alcuni, si potrebbero fare parecchi nomi, ma non li voglio fare, in realtà sono delle lobby, sono delle mafie. Il voto di scambio non è solo quello, cioè, mafioso che c'è anche, tra l'altro, fra i partiti, coi partiti, ma è anche tutto il sistema clientelare che ammazza il merito. E questo è una realtà, credo, indiscutibile. Vorrei sapere, sentiamo, Piccolo cosa mi dice. No, sì, su questo, prima di Piccolo, senatore Fluttero, la sente l'indignazione? Cioè, guardi che se dovessi leggerle i messaggi che arrivano. No, ma io i messaggi li leggo perché li ricevo, e poi vivo in mezzo alle persone come tutti, vado a fare la spesa al supermercato, mi conoscono tutti, il mio numero è sulla guida del telefono, quindi... Sì, ma lei risponde per lei, giustamente, però come dice Fini è il sistema che la fagocita. Anche se a livello personale mi stimano nel mio territorio perché sono stato sindaco, conosco l'indignazione verso la politica. Trovo molto interessante lo sviluppo del dibattito di questa mattina, perché stiamo cominciando a focalizzare le critiche dall'istituzione parlamentare al sistema dei partiti. Sono due cose diverse. Io sto cercando di difendere l'istituzione parlamentare. Sui partiti ci sarebbe da aprire un capitolo enorme, e credo che sarebbe buona cosa che l'opinione pubblica e anche i giornali cominciassero a occuparsi di questo, di più del tema della esigenza di trovare un meccanismo di rappresentanza che sia migliore rispetto a quello che i partiti hanno costituito fino a oggi. Sentiamo su questo. Ma non demoliamo le istituzioni. No, non demoliamo le istituzioni, però Piccolo vuole replicare su questo come chiusura a fini, in un minuto, sulla questione, insomma, se non sei nei partiti sei un paria, visto che applicano logiche mafiose. Quello che dice Fini è giusto. Quello che io cerco di dire non è che accetto questo sistema così com'è e mi piace, del resto anche ieri ho scritto tutt'altro, ma la questione è se è giusto arrivare a delegittimare completamente un sistema a causa dei suoi mali. Io credo che in Italia uno dei problemi della storia di questo paese sia stato proprio questo, quello di affrontare i momenti di crisi buttando via tutto. Faccio un esempio per intenderci: il bipolarismo, il sistema maggioritario è nato alla fine di Tangentopoli, appunto quando si è scoperto che il problema dei partiti quale fosse. A un certo punto non si è detto va bene, a questo punto la Democrazia Cristiana muore, il PSI muore, eccetera, e rinasceranno altri partiti, ma si è buttato giù un intero sistema credendo di sostituirlo con regole completamente come vorrebbe qualcuno adesso, come vorrebbe qualcuno adesso, cioè buttiamo a mare tutta la classe politica, come ci scrivono ancora nei messaggi. Io vi ringrazio, spero che il dibattito sia stato interessante, con Massimo Fini, scrittore, giornalista del Fatto Quotidiano, Francesco Piccolo, scrittore, giornalista, scrive una rubrica sull'Unità, e il senatore Andrea Fluttero, che ha fatto questo manifesto dell'impegno parlamentare del Popolo della Libertà. Grazie per essere stati con noi. Noi ci troviamo domani, sì, domani è venerdì, per me sarà l'ultimo giorno prima di un po' di ferie. Saluto Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, con Viola Bottoni e con il nostro alpino, che ci scrivono: perché lo chiamate alpino? Perché è un alpino, ha fatto gli alpini, no? Qualcuno ci ha detto: perché dite che Peter è alpino? E che mistero sarà mai? Perché c'ha la penna nera Peter Bescapè, l'alpino. Ci troviamo domani alle 7:20.